Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia. Questo è un sabato pre-europeo, insomma, per l'Inter, per la Roma, per la Juventus questa sera, ma anche per le dirette avversarie inglesi. Intanto il Chelsea ha già vinto la prima partita del Reading 1-0, gol del solito Anelka sul campo dell'Aston Villa, e si annuncia un Chelsea in ripresa, un Chelsea senz'altro motivato. Più tardi ne parliamo, intanto proviamo a capire come sta andando l'Inter a Bologna, subito, da Emilio Buttaro. Buonasera Emilio. Sì, buon pomeriggio dallo stadio dell'Ara, qui sta per iniziare il secondo tempo, le squadre stanno attendendo praticamente il fischio del direttore di gara, Iroldi, che arriva proprio in questo istante, batte l'Inter. Ricordiamo il parziale, il risultato è di 0-0 in un dall'Ara oggi gremito, si gioca nel ricordo di Giacomo Bulgarelli, prima dell'inizio della partita è stato esposto dalla curva Andrea Costa, un grandissimo striscione con su scritto nel cuore di Bologna. Le vere bandiere continuano a sventolare, poi c'è anche una gigantografia nella Torre Maratona. Per quanto riguarda invece ciò che è successo in campo, ribadisco 0-0 il parziale, gara tutto sommato equilibrata fino al momento, con l'Inter che nei primi minuti ha cercato un po' di fare la partita, poche le occasioni da rete, ma tante le magie di Ibrahimovic, che ha impegnato in qualche circostanza il portiere Antonioli, ma si è proposto davvero bene anche in veste di assist man, ha fatto davvero delle giocate che hanno deliziato la platea bolognese. Poi nel corso della gara, soprattutto nell'ultima parte di gara, diciamo nell'ultimo quarto d'ora, la formazione nerazzurra ha un po' arretrato il baricentro e ha permesso al Bologna di rendersi pericoloso. In precedenza Zenoni aveva impegnato Julio Cesar a terra, poi lo stesso Cristiano Zenoni in prossimità del 40esimo ha effettuato un gran cross sul quale Julio Cesar è uscito alla grande sulla corrente di Vaio. Poi ci ha provato prima del riposo anche Volpi da posizione decentrata su punizione, palla di poco fuori, e adesso nell'Inter è entrato Muntari, è entrato Stankovic al posto di Muntari. C'è adesso la formazione nerazzurra che si sta proponendo in avanti, libera Brites. Ribadisco il parziale, quando siamo giunti al secondo minuto di gara allo stadio Dall'Ara, Bologna 0, Inter 0, a te la linea. Grazie Carlo. Emilio Buttaro, partita che naturalmente teniamo sott'occhio, vi daremo ogni aggiornamento in tempo reale, più tardi torneremo a collegarci col Dall'Ara. Dunque entra Stankovic al posto di Muntari, decisamente il peggiore in campo, schierato come trequartista nel primo tempo. Al 35esimo fiato sospeso per gli interisti quando Ibrahimovic è rimasto a terra in seguito a un contrasto piuttosto duro, botta un ginocchio, però in questo secondo tempo è rientrato Ibra, che invece è stato, al contrario di Muntari, il migliore dell'Inter, probabilmente il migliore in campo nel primo tempo. Un Bologna che si difende molto bene, non fa molto altro in realtà. Occhi su questa partita, occhi anche sulla giornata di Serie B, parziale Avellino 1 Vicenza 0, a Bari vince 2-0 l'Ascoli, risultatone a sorpresa al Cittadella che sta vincendo 1-0 ad Empoli, Grosseto Livorno 2-2, Mantova Triestina 0-0, l'Albino Leffe in vantaggio 2-1 a Piacenza, Sassuolo Rimini 0-0, Modena in vantaggio 1-0 a Treviso. Però adesso divaghiamo un po', naturalmente con gli occhi sulla cronaca, per parlare di rugby. Peroni illumina la tua voglia di rugby. Vi presenta Palla Ovale. E come sapete è sabato di tregua per le Sei Nazioni, ma tra una settimana ci aspetta un viaggio in Scozia che affrontiamo certamente non con il cuore leggero, anzi in compagnia di tanti cattivi pensieri. Giacomo Bagnasco, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, non è un buon momento per questa Italia che ha concluso le prime due partite con due sconfitte che ci potevano stare, peraltro purtroppo nei primi 9-6 nazioni, questo lo ricordiamo, il decimo, l'Italia, dicevamo, purtroppo ha sempre perso sia dall'Irlanda sia dall'Inghilterra. Però di solito con la Scozia vincevamo, quest'anno è un po' meno così ben augurante il viaggio in Scozia. Ne vogliamo parlare, Giacomo, anche con Carlo Orlandi, membro dello staff azzurro, allenatore degli Avanti e nostro grande amico. Ciao Carlo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Carlo, i motivi di questa involuzione, se c'è involuzione? Ma non è una vera e propria involuzione, c'è un miglioramento di altre squadre, specialmente se facciamo riferimento al Sei Nazioni dell'anno scorso, dove forse è stato il peggiore Sei Nazioni tecnicamente parlando da quando l'Italia è entrato nel giro delle prime cinque nazioni. Sì. Quest'anno ci sono le squadre irlandesi, scozzesi, gallesi veramente forti, perché sono forti le loro selezioni che partecipano alla Heineken Cup e alla Celtic League. Giacomo. Sicuramente è così, è un momento buono per le nazioni celtiche, tant'è vero che Irlanda e Galles sono in testa e a questo punto molti pensano che si giocheranno il torneo nell'ultima partita che si giocherà a Cardiff. Ricordiamo anche le altre due partite del prossimo turno, tutte e due di grande importanza, c'è un Francia-Galles che si gioca di venerdì e questa è una novità assoluta, venerdì sera, e poi c'è un Irlanda-Inghilterra al Croke Park. A Carlo Orlandi io vorrei chiedere questo, premesso che, come dice un grande vecchio come George Cost, si gioca con le regole che ci sono e non ci si deve far prendere dalla nostalgia, però ecco, quanto mancano le vecchie regole all'Italia, in particolare alla mischia dell'Italia? Ma diciamo che l'unica regola che ha tolto una freccia all'Italia è quella della mole, cioè la possibilità di far crollare la mole. Le altre non penso che abbiano inciso sul gioco dell'Italia. Ecco, forse questo gioco che viene sempre più espresso con dei calci lunghi per far stare in campo la palla, ecco, gli italiani gli manca un calciatore preciso e potente come hanno altre squadre, però penso che solamente quella della possibilità di portare a terra la mola abbia influito veramente sulla possibilità di segnare dell'Italia. Carlo, come ha preso la squadra quei fischi del Flaminio? Non generalizzati, però qualche fischio si è sentito, è stato diventato un fattore nuovo per l'Italia del rugby. Ma è stata presa con maturità, nel senso sono consapevoli che non abbiamo fatto un novembre buono, non è stato fatto bene le prime due partite delle Sei Nazioni e dunque accettano che ci siano dei tifosi, come tali possono esprimere un giudizio sul gioco espresso. Se invece devo parlare da allenatore, voglio capire perché hanno fischiato, cioè se è normale perdere con Inghilterra e Irlanda, sì, per loro o no, ecco, oppure dobbiamo vincere contro una nazione che ha più di 1 milione di tesserati, noi ne abbiamo 70-80 mila e dobbiamo anche vincere. Non so se c'è una legge matematica che mi riesce a fare capire questo, cercherò di capirlo, però io penso che stanno facendo delle partite non forse all'altezza, cioè nel senso che possono dare di più e cercheremo di dare di più a partire dalla Scozia, però non è detto che sia matematico che l'Italia possa vincere con chiunque delle Sei Nazioni. Certo, però sono figli forse di una grande attesa, di un grande amore che questa squadra si è saputa conquistare, quei fischi. Sì, però il fischio allora se è verso quei giocatori che ci mettono tutto quello che ci devono mettere, pur sbagliando, perché è indubbio che hanno fatto molti errori, però che ci hanno messo la faccia, ma nel vero senso della parola, cioè è uscito un canale con che non so neanche se sua mamma lo riconosceva dopo la partita, con un Mirko Bergamasco con un buco nella coscia, con un McLean che ha vomitato tutto quello poverino che ha mangiato negli ultimi 3 giorni. E dunque io penso che lì hanno messo tutto quello che avevano, probabilmente adesso dobbiamo dare ancora quel di più che forse è all'interno di ogni giocatore, ma che non è ancora venuto fuori, ecco. Grazie Carlo, buon lavoro, in bocca al lupo, buon viaggio. Grazie. Buon viaggio verso la Scozia che affronteremo appunto sabato prossimo. Giacomo, inizia la partita alle 15, vero? Sì, la partita in realtà la partita inizia alle 16 ora italiana. Sì. E è una partita per noi a questo punto fondamentale, è una partita che potremmo affrontare con diverse novità in campo. Anche perché Masi pure è squalificato. Masi è squalificato, al suo posto è stato convocato Pavan. Comunque, in sostanza, rispetto ai 24 convocati del primo giro, considerando anche Griffin che è arrivato in realtà solo per la seconda partita, rimangono fuori Festuccia, Reato, Toniolatti, Masi, Robertson e Montoriol, Masi perché squalificato, Robertson perché infortunato, gli altri per scelta tecnica, mentre rientrano Bortolami, Canavosio, Ghiraldini, un rientro sicuramente importante, sì. Marcato, altro rientro importante, e si vedono Rubini e Gilberto Pavan. Quindi qualche cosa cambierà, ma soprattutto qualcosa dovrà cambiare probabilmente anche nell'atteggiamento della squadra. Ho sentito le parole di Carlo, che naturalmente ha ragione a dire, ad esempio, che contro Irlanda, l'abbiamo appena detto anche noi, contro Irlanda e Inghilterra l'Italia ha sempre perso nel Sei Nazioni, però l'anno scorso nel complesso delle due partite ha subito una differenza punti negativa di 9 punti, un meno 9, quest'anno è un meno 54. E qualche differenza c'è. Penso anche che i fischi siano poi figli probabilmente della sensazione di impotenza che è rimasta, certo, ai giocatori e forse anche alla squadra nel corso del secondo tempo con l'Irlanda. D'altronde i fischi prima o poi da sostenitori latini è sempre possibile attenderseli. Ad esempio in Francia fischiano molto più spesso i loro beniamini quando qualcosa, certo, non va. No, non c'è dubbio, sono fischi anche della mentalità italiana, perché tutti amano questa squadra, tutti stanno imparando ad amare questo sport, però non puoi proporre sempre sconfitte più o meno onorevoli, qualche volta devi vincere, qualche volta devi comunque dare la speranza, non voglio dire l'illusione, ma la speranza di arrivare a competere, a darmi pari con questi, insomma. Ancora questa speranza non ce l'abbiamo. Grazie Giacomo, ci sentiamo sabato prossimo per la partita e relativo commento. Grazie. Senz'altro, grazie a voi. Intanto Bologna-Inter sono ancora sullo 0-0, siamo all'undicesimo del secondo tempo. Stacco sul traffico che porta bene all'Inter, che si è portato in vantaggio mentre sentivamo le informazioni per chi è in viaggio. Ha segnato Cambiasso, siamo ora al tredicesimo minuto e c'è Emilio Buttaro da Dallara che ci racconta questo gol. Sì, al dodicesimo la formazione nerazzurra è passata in vantaggio, c'è stato un calcio d'angolo battuto da Maicon, sponda un po' sporca da parte di Adriano e Lanna ha praticamente si è più interessato al pallone, ha lasciato l'avversario che stava seguendo, e cioè Cambiasso, che all'interno dell'area piccola ha potuto girare in rete. Un gol che permette così all'Inter di passare in vantaggio, credo sia la prima rete in campionato, al momento pesantissima per il centrocampista dell'Inter. Adesso Bologna prova a ripartire, c'è un lungo lancio di Volpi per Di Laio, esce Julio Cesar dalla propria area e serve un compagno, adesso c'è Cordova in possesso di palla. Ribadisco il parziale, quando è trattato adesso il tredicesimo minuto della ripresa allo stadio Dall'Ara, Bologna 0, Inter 1. Perfetto, grazie Emilio, a più tardi. Intanto per darvi un'idea, a proposito potete intervenire, io vi invito sempre, fatelo pure, 800 24 00 24. È il numero verde per parlare con noi in diretta, messaggi 349-238-6666. Però per chiudere il discorso rugby aperto con Carlo Orlandi e per darvi un'idea dei sentimenti dell'Italia del rugby, vi voglio leggere soltanto due messaggi. Alessio da Treviso che scrive: per fortuna oggi non giochiamo, sarebbe stato il terzo weekend che avrei passato male. Un altro ascoltatore, Marco da Roma: sarò ad Edimburgo, ho prenotato il biglietto a luglio, però dopo aver visto questo allenatore sono veramente tentato di non partire. Questo è il sentimento generale. Oggi Bologna più che mai sport town, perché c'è Bologna-Inter, ripeto, 0-1 14esimo minuto, ma c'è anche la Coppa Italia di basket sul tavolino che aspetta chi se la piglierà domani sera alle 17, inizio della finale 17:30. Tutti dicono sarà Siena, non lo so, può essere, anche se un paio di euro sulla Virtus Bologna io li scommetterei. Non so, Luca Chiabotti, inviato dalla Gazzetta dello Sport, ciao Luca. Ciao a tutti. Mi mettiamo un paio di euro sulla Virtus o no? Beh, la Virtus deve prima far fuori Teramo, Non sarà una partita facile. E poi la finale, perché no? Perché no? Abbiamo sempre detto, è ovvio che il pronostico non è un oroscopo, per cui deve basarsi su quello che è successo fino adesso, e Siena non ha rivali. Il bello della Coppa Italia sono i famosi 40 minuti, dove può succedere un po' di tutto e dove, se Siena gioca come ha giocato ieri, può anche perdere. E poi sono i terzi 40 minuti che giochi in 4 giorni e ogni volta non puoi sbagliare nulla. Lo sport ogni tanto, Luca, racconta storie quasi magiche, magari esagero, però quella di Bulleri è bella. Bulleri È bellissima. Quella di Bulleri è bellissima perché è una lezione, anche se è solo l'inizio di una sua diciamo rinascita, perché Bullo è un ottimo giocatore che è stato messo strapagato ben oltre quello che andava pagato, però non è che uno poi dice no, non datemeli. È messo in una condizione difficile, ha perso il tocco, ha perso la fiducia, ha perso tutto, e che però non ha perso le qualità, non ha perso le sue capacità, non ha perso soprattutto il fatto che è una brava persona, una persona che è sensibile, quindi si incasina la vita troppo, pensando troppo, ma nella condizione giusta può essere ancora un giocatore vincente, e ieri l'ha dimostrato, ha debuttato con Treviso, prima partita che fa, ed è stato già decisivo, quindi proprio una bella storia, e deve far anche un po' meditare sulle logiche. Sì, no, non c'è dubbio. Io credo, Luca, che al di là dei tanti soldi che Vulleri prendeva a Milano, abbia subito anche, ti dico, un trattamento non adeguato da Piero Buchi, da chi guida la squadra quest'anno, perché quasi un'umiliazione quel finire fuori dalle rotazioni in una squadra che non mi sembra navighi nell'oro, agonisticamente parlando, come l'Armani. No, ma poi soprattutto un giocatore così, e con l'Armani di adesso, non può stare in quella squadra, cioè, scherziamo. Sì. Se fossero i Boston Celtics, uno dice non ha le qualità, ma sull'Armani di oggi, francamente, si trattava soltanto di non di metterlo in una condizione in cui un giocatore può tentare di esprimersi, tra l'altro anche come cambio di Vitali, ma non di umiliare alla fine. Quando li facevano giocare due minuti per far prendere fiato a Sangaré, certo. perché avevano mordente rotto, francamente una cosa che è brutta certo. Perché uno comunque va comunque rispettato, non solo perché Bullo ci ha fatto vincere qualche medaglia o perché, ripeto, in tutti questi anni è vero, ha deluso Milano, certamente, però ha sempre mantenuto un comportamento e in campo ha sempre dato quello che riusciva a dare, ecco. Non c'è dubbio, sulla professionalità di Bulleri nessuno può mettere parola, insomma. Bulleri che questa sera ha la possibilità di aggiungere un altro capitolo a questa storia bellissima, solo agli inizi, questa ristoria con Treviso, però sarà dura con Siena. Siena che tu hai visto ieri, di cui hai scritto sulla Gazzetta di oggi, Siena che ha pagato l'incognita della prima partita, una Siena carica di rabbia, però con tanta pressione sulle spalle per questa Coppa mai vinta. Beh sì, ovviamente è una pressione che si è messa soprattutto lei, perché è una che ha vinto 99 partite su 108, mi sembra, negli ultimi anni in campionato, che ha vinto due scudetti, che è chiaro che la Coppa Italia ha un valore francamente relativo, però evidentemente queste sono le squadre che nascono una volta ogni 10-15 anni, quelle che non stanno bene con se stesse fino a quando non vincono tutto. Per cui ieri si è vista un po' di tensione, hanno giocato bene, hanno sbagliato dei tiri che devono fare. Io credo che adesso si siano sciolti un po', anche se Treviso poi è la squadra che due anni fa, dopo essere stata dominata per 48 minuti, li ha battuti. E quindi un po' di attenzione la dovrà fare, certamente. Luca, grazie, ti aspettiamo qui uno di questi venerdì per Palla Spicchi, eh? Non sei ancora venuto a trovarci. Quando volete, arrivo. Segniamo l'appuntamento con Luca Chiabotti, che saluto, abbraccio e ringrazio. Grazie a Luca Chiabotti. Dunque, sempre Bologna 0, Inter 1, sapete cosa vi dico? Quel ponte di Adriano, quella palla colpita di testa di Adriano sul cross, sul corner di Maicon, e che poi ha portato al gol di Cambiasso, a rivederla, già avevo avuto l'impressione, però a rivederla, è stato qualcosa di simile a quello che abbiamo visto nel derby. Testa, braccio, palla che scivola un po' lungo il braccio, va verso Cambiasso che la spedisce in gol. Insomma, Adriano ci riprova e gli va bene ancora, gli va bene un'altra volta. Per adesso sono le 17:25, è il momento di Andrea Zorzi. Il segno di Zorro. Toccherà a voi, ascoltatori di Radio 24, decidere se si tratta di un caso di colonialismo sportivo, di fuga di cervelli o semplicemente della legge del mercato. Partiamo dal fatto di cronaca. Daniele Bagnoli è diventato il nuovo commissario tecnico della nazionale russa di volley. L'allenatore di Mantova, 56enne, in Italia ha vinto 30 trofei in 13 anni. 8 scudetti, 5 Champions League, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe CEV e una Coppa delle Coppe. 24 di questi trofei li ha conquistati nei 9 anni in cui ha guidato la SISL Treviso e gli altri 6 li ha vinti a Modena intorno alla metà degli anni 90. Per non perdere l'abitudine, ha vinto anche la Coppa di Russia e lo scudetto negli ultimi 2 anni, da quando si è trasferito a Mosca per guidare la Dinamo. In questi giorni, le 30 personalità più importanti dello sport russo, lì lo chiamano presidio, hanno deciso che Bagnoli sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale maschile fino al 2010, l'anno in cui si disputeranno in Italia i mondiali di volley. E se per Daniele è un sogno che si avvera, per gli avversari, gli italiani innanzitutto, è un incubo. Bagnoli è noto per essere sempre riuscito a dare un gioco perfettamente organizzato alle sue squadre. Le tante vittorie sono arrivate grazie alla sua attenzione maniacale ai minimi dettagli, allo studio degli avversari e alla straordinaria capacità di lettura tattica delle partite. I russi, invece, che hanno dominato il panorama pallavolistico mondiale fino agli anni Ottanta, sembrano incapaci di sfruttare le loro infinite potenzialità. Hanno tantissimi atleti, qualità fisiche non comuni, tradizione, strutture sportive e da qualche anno anche tanti soldi. Ebbene, il mix sembra essere perfetto. Adesso hanno la guida ideale per tornare a dominare il mondo. Ma Bagnoli predica prudenza, perché nelle sue corde abbassare i toni e poi conosce bene l'ambiente russo. Lui stesso dichiara: qui ci sono molte potenzialità, ma devono essere inquadrate. In alcuni ruoli, nei palleggiatori, e questo lo dico io e non Bagnoli, non siamo ancora competitivi a livello internazionale. E poi i giovani sono cresciuti senza l'esempio dei vecchi campioni che giocavano all'estero. La traduzione spetta ancora a me. I giovani russi, talvolta, mancano del senso del gioco, si affidano troppo alla forza trascurando tecnica e tattica e non hanno tanta voglia di imparare. Forse perché sono cresciuti nella nuova Russia, quella dei ricchissimi finanzieri, e con i soldi e le relative soddisfazioni hanno un rapporto conflittuale. Bagnoli, nei suoi 2 anni in Russia, ha già imparato molto. Per esempio, si limita ad accennare a quali sono i problemi, senza mai parlarne troppo apertamente in pubblico. Infatti, quando arrivò a Mosca, l'impatto fu durissimo e solo le vittorie riportarono un po' di calma. Sono stati 2 anni necessari per capirsi meglio. Lui e il suo fedelissimo staff si sono adattati ai russi e i russi si stanno adattando a loro, perché le differenze sono davvero tante. Ma la storia del colonialismo sportivo, della fuga di cervelli o della legge di mercato dove è finita? Un istante che ci arrivo. Bagnoli è solo l'ultimo della lunga lista di allenatori italiani che lavorano all'estero. Per la precisione sono 18, ma ciò che impressiona è che ben 9 di loro guidano squadre nazionali. Di Bagnoli in Russia vi ho già detto. Poi ci sono Silvano Prandi in Bulgaria, Julio Velasco in Spagna, Mauro Berruto in Finlandia, Raul Lozano, che è argentino come Velasco ma di passaporto italiano, allena la Germania maschile, Giovanni Guidetti quella femminile, Emanuele Zanini la Slovacchia, Fausto Polidori la Turchia maschile e Alessandro Chiappini la selezione femminile. Che ne pensate? Tanta roba, vero? Tutto è iniziato con i successi degli anni 90 e con Velasco, che ha creato una nazionale vincente, ma soprattutto è riuscito nel miracolo di dare vita ad un movimento straordinario intorno a quel gruppo. Dirigenti, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, scoutmen, che sarebbero i rilevatori statistici, sono cresciuti e hanno fatto esperienze di altissimo livello. L'Italia è diventata la guida del volley mondiale, contando sul campionato più bello e più organizzato del mondo. Ora, i paesi emergenti che vogliono fare il salto di qualità si rivolgono all'Italia per sfruttare il know-how tecnico, tattico e organizzativo sviluppatosi nel corso degli ultimi 20 anni. Io vedo favorevolmente questo movimento verso l'esterno, perché una crescita del volley internazionale crea maggior spettacolo e interesse. Allo stesso tempo sono convinto che i tanti tecnici italiani all'estero nulla hanno a che fare con il livello della nostra nazionale, guidata dall'italianissimo Anastasi, tornato a casa dopo la splendida vittoria con la nazionale spagnola agli ultimi europei. Nel 2010 i mondiali saranno in Italia e per il nostro movimento sarà un punto di svolta nel bene o nel male. L'Italia dovrà fare i conti con le tante nazionali che crescono, anche grazie ai nostri allenatori. Questa è la competizione di un mondo che diventa più grande. Questa è la legge del mercato. E questa è anche la mia risposta. Ciao a tutti da Andrea Zorzi. Noi ci risentiamo sabato prossimo su Radio 24 alle 17:25. Grande Andrea Zorzi, sempre splendidi i temi che ci regala. Gioco fermo a Bologna, sempre sullo stesso punteggio, 1-0 per l'Inter, decide il gol di Cambiasso. Per ora siamo alla mezz'ora, gioco fermo perché Cordoba ha preso una capocciata da Marazzina dopo aver liberato un pallone di testa, sanitario in campo. Cordoba si rialza, il gioco può proseguire, Bologna ci prova, ma l'Inter non corre al momento grossi rischi. Andiamo però adesso in Inghilterra, perché è il momento di aprire la pagina inglese. Lo facciamo, ed è un grande piacere, con la penna inglese della Gazzetta dello Sport, Giancarlo Galavotti, che saluto e ringrazio. Buonasera Giancarlo. Buonasera a voi. Tanto il Chelsea il suo l'ha già fatto, no? Con, battendo 1-0 l'Aston Villa con gol di Anelka nella prima di Gus Hiddink. L'Arsenal è in campo con il Sunderland e stasera tocca al Man U contro il Blackburn. Sembra però, a leggere anche quanto scrivi, quanto è scritto in questi giorni, in queste settimane, che i timori inglesi per questo tipo di confronto non siano poi elevatissimi, sono più nostri i timori. È giusta l'impressione? Ma perché è storica, fa parte delle due culture, cioè laddove noi italiani siamo eredi della scaramanzia degli antichi romani e quindi non ci vantiamo mai delle nostre possibilità prima di uno scontro, invece gli inglesi sono eredi appunto dei britanni e dei sassoni che usavano battere sugli scudi con le spade per fare un grande rumore che sì, da una parte voleva spaventare gli avversari, ma serviva soprattutto a farsi coraggio. Quindi laddove noi italiani ingigantiamo sempre l'avversario, qualsiasi sia in Europa, gli inglesi invece dicono sempre vinceremo e ce la faremo, perché invece avanzare dei dubbi potrebbe voler dire quasi essere disfattisti, manifestare la loro debolezza. Però onestamente il Manchester United in questo momento sembra quasi inattaccabile, no? Ha enorme fiducia in se stesso, lo stesso Giggs dice è l'edizione più forte del Manchester in cui ho giocato, quelli sono davvero là sulla montagna. Assolutamente, però è anche vero che ormai qui in Inghilterra è diventato uno status quo, per cui andare ad Old Trafford e perdere è ormai accettato da tutti, e più diciamo deboli sono le squadre e più vanno lì come agnelli sacrificali, come ha fatto il Fulham l'altra sera, lasciando passeggiare, fare i numeri, i tocchetti a tutti i Red Devils con risultato scontato. Quindi l'abbinamento Manchester United-Inter ovviamente mette di fronte le due più forti sul fronte della Premier e della Serie A. A questo punto ci sta anche che il Manchester, abituato a non incassare gol in campionato da 14 turni, abituato a vincere ormai ad occhi chiusi, possa anche trovare invece sul terreno europeo quel tipo di avversario al quale non è preparato. Sarebbe come un pugile che affronta sempre avversari scarsi e che quando però si trova di fronte all'altro potenziale campione, allora la partita è tutta da giocare. Può soffrire il Manchester United la fisicità dell'Inter? Perché io mi aspetto un Inter simile, ve la ricorderete, a quella che giocò la partita interna contro la Juventus, mettendola in difficoltà fisica con un'intensità, un'emotività in quella gara pazzesca. Il Manchester può subire la fisicità dell'Inter oppure deve metterla su altri livelli? Il discorso fisicità è proprio il pericolo segnalato da Ferguson. Cioè, se l'Inter ha un'arma con la quale dovremmo fare i conti è proprio quella della fisicità, noi pensiamo comunque di avere la tecnica e la qualità per poter ovviare a questo vantaggio interista e quindi cioè, già identificata in pieno quella che può essere l'arma letale interista, al tempo stesso, come dico, il fatto che poi si gioca a San Siro l'andata e il ritorno all'Old Trafford significa anche che l'Inter dovrà cercare di raccogliere il più possibile martedì, perché poi al ritorno all'Old Trafford che c'è il fattore dei 75.000 sugli spalti e tutta la leggenda del teatro dei sogni, quindi è meglio riuscire a fare un buon risultato subito a Milano. Tanto l'Inter becca un gol in questo momento, becca un gol dal Bologna, lo segna Britos su azione di calcio d'angolo dopo che Rivas ne aveva salvato uno con un intervento semi miracoloso su Di Vaio lanciato a rete. Dunque Bologna-Inter 1-1. Mentre ti sentivo parlare, mentre c'è questo pareggio del Bologna, curioso come venga ribaltato un po' l'iconografia classica dei confronti Italia-Inghilterra, noi fisici, loro tecnici, Sì, ma d'altra parte la Premier League, con tutte le iniezioni di stranieri, certo, sia dal punto di vista di giocatori che di allenatori, ormai diciamo ha trasformato quella che era l'iconografia classica del calcio inglese, che ormai è continentale, soprattutto quello che riguarda le grandi squadre e tutti gli stranieri che le imbottiscono. Quindi in Italia invece da tempo si è cercato di ovviare alla fisicità classica, certo, dei britannici, dei tedeschi, eccetera, cercando di mettere sulla tecnica nostra tradizionale anche questi elementi. Poi con uno come Mourinho, che ovviamente ha fatto esperienza sia sul fronte latino che sul fronte inglese, questo è già stato portato a livelli, diciamo, ottimali, che dovrebbero poter dare i risultati sperati anche contro il Manchester United. Al tempo stesso c'è un ottimismo talmente elevato che su questo fronte, che tutti gli allenatori degli inglesi dicono passeranno le inglesi, anche Ferguson ribadisce, insomma, con tre semifinaliste in due anni in Champions, anche quest'anno la cosa andrà avanti, ci sarà sicuramente un inglese fino all'ultimo. Al tempo stesso, per chi è interessato, i bookmakers qui offrono l'eliminazione di tutte e quattro le inglesi, quindi anche lì in questo turno 20-1, che mi sembra un investimento mica male. Visto quello che offrono le banche adesso, è molto interessante. Ma come dicevi tu, battono sugli scudi questi. Delle tre invece, l'Arsenal, che sta pareggiando 0-0 col Sunderland, mi sembra quella in condizioni più difficili. Assolutamente, diciamo che l'assenza di Cesc Fabregas è veramente pesantissima. Cesc Fabregas, se va bene, rientrerà proprio nel finale di stagione. Gli mettiamo pure una punta come Adebayor, che anche lui non sarà disponibile, salvo miracoli, almeno nell'andata contro la Roma, per cui la Roma ha tutto da giocare e da giocarsela. Anche lì è una questione proprio di atteggiamento, quanto le italiane, la Roma, la Juve e l'Inter lasceranno spazio alla foga inglese, quanto invece imporranno il loro gioco, e se cercano di imporre il loro gioco, allora ci sta tutto. Ma pensa un po' che segna anche Balotelli in questo momento, 37esimo, su una punizione che era praticamente un cross dalla destra, palla che rimbalza per terra, Antognoli che perde la Trebisonda e la palla che si infila lentamente nell'angolo. Primo gol in campionato per Mario Balotelli appena entrato in campo. Pensa un po'. Mourinho, dopo aver curato sta curando anche Balotelli, chissà se gli riesce pure questa. Ti chiedo ancora una cosa, Giancarlo. Il Chelsea invece è difficile da leggere. Con l'arrivo di Iddink, oggi torna a vincere, c'è Anelka che è tornato ad essere giocatore irresistibile, che era a inizio carriera, però è difficile capire come Iddink possa lavorare in prospettiva Juventus in così poco tempo. Assolutamente, anche perché oggi abbiamo visto una partita, diciamo, a due facce. Il primo tempo tutto Chelsea, con un Aston Villa che è la squadra, diciamo, outsider, che sta dando grane alle grandi in questa Premier League, era assolutamente irriconoscibile. Quindi gran gol sia nella costruzione di Lampard che nell'esecuzione a cucchiaio di finezza di Anelka, ma al tempo stesso la ripresa, il Chelsea ha sofferto, Cech ha dovuto salvare ripetutamente il risultato, il Chelsea non ha approfittato delle occasioni soprattutto nel primo tempo, quindi è un Chelsea che sì, diciamo che ha giocato con l'effetto Iddink, ma ha finito la carica dopo 45 minuti, e lo stesso Iddink poi anche contro la Juve dovrà sperare di ricaricarli, perché non è che venendo lui si è portato dietro anche quei giocatori che ovviamente mancavano a Scolari, in quanto Abramovic ha chiuso i cordoni della borsa e ha delle alternative. Quello che ha messo in campo oggi, a parte Carvalho, che in difesa è un'assenza importante, è quello che avrà da giocare contro la Juve, quindi un Drogba che continua ad essere assolutamente in un'altra dimensione, ed una dimensione decisamente negativa e scarsa, per cui anche lì, se Ranieri non si lascia prendere da troppe emozioni e da troppi ricordi, forse la partita è tutta da giocare. Forse lì ce la giochiamo fino in fondo. Grazie Giancarlo, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Davvero. Giancarlo Galavotti, dunque, inviato della Gazzetta dello Sport in Inghilterra, così abbiamo inquadrato da vicino proprio il momento delle squadre inglesi. Ripeto, Bologna 1, Inter 2, 40esimo, dunque dopo il pareggio di Britos, subito dopo il pareggio di Britos, bel colpo di testa su azione d'angolo, ecco che arriva il gol di Balotelli, ripeto, punizione dalla sinistra, un tiro cross, la palla molto liftata, molto, molto alta, difesa del Bologna ingannata, così come Antognoli che lascia sfilare il pallone sul palo lontano, e dunque Inter di nuovo in vantaggio. Ora ci prova con Santon, splendido l'imbeccata per Ibrahimovic, che però si fa fermare dallo stesso Brito. Se è calcio d'angolo per l'Inter, siamo al 40esimo, Bologna 1, Inter 2. Andiamo a dare un'occhiata anche all'Arsenal, Arsenal-Sunderland sempre 0-0, quando siamo a 4 minuti più recupero dalla conclusione. Qui a Bologna invece ne mancano 3 più recupero alla conclusione e Inter sempre in vantaggio 2-1, ve lo ripeto. Vi ricordo anche i nostri contatti, eventualmente se volete intervenire 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Noi intanto rimaniamo sulla cronaca, poi anche su quella della Serie B, dove c'è il Livorno che ha ribaltato il derby toscano, ora vince 3-2. Il Bari, che era sotto 2-0 con l'Ascoli, è riuscito a riacciuffare quantomeno il pareggio, ora è 2-2, siamo il rigore di Parisi al 47esimo del secondo tempo, in ampio tempo di recupero, quindi Avellino 1, Vicenza 0, sono tutti parziali ancora. Cittadella sempre in vantaggio 1-0 ad Empoli, la Triestina che vince 1-0 a Mantova, l'Albino Leffe che vince 2-1 a Piacenza con doppietta di Madonna, Sassuolo in vantaggio 1-0 su Rimini, gol dell'eterno Zampagna, Modena ancora in vantaggio 1-0 a Treviso, ripeto tutti parziali. Così come a parziale il 2-1 di Bologna, così come stanno scendendo in campo le squadre a Roma, all'Olimpico. C'è Roma-Siena, sulla carta il meno difficile degli impegni delle tre italiane di Champions, però la Roma è alle prese con squalifiche, infortuni, con un Totti che ha preso una bottarella, come l'ha chiamata ieri Spalletti in conferenza stampa. Spalletti che però lo schiera, Totti in campo da primo minuto, salvo sorprese. Guglielmo Timpano dall'Olimpico, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli amici e tutte le amiche all'ascolto. Sì, Totti in campo, le formazioni ufficiali sono appena arrivate qui in tribuna stampa, andiamo subito a darle nel dettaglio. Rispetto a quelle che erano le indiscrezioni della vigilia, per il Siena dentro Frick non sarà della partita, almeno non sarà nello starting iniziale Gezzal, che va in panchina. Siena con il 4-3-1-2, Curci tra i pali, Del Grosso, Brandao, Portanova e Zuniga, la linea difensiva da sinistra a destra, Codrea, Galloppa e Jarolim a centrocampo, Carja dietro le due punte, Maccarone e Frick. Per la Roma era dal 1 novembre del 2008, stagione in corso evidentemente, Juve-Roma 2-0, che non si vedeva il 4-2-3-1 che ha reso celebre la Roma di Luciano Spalletti. Torna il 4-2-3-1 e torna oggi contro il Siena, Doni tra i pali, linea difensiva 4 con Motta a destra, Risi a sinistra, Mixes e Juan i centrali. Paradossalmente una sorpresa anche questa, perché si era parlato a lungo in settimana di un utilizzo di Simone Loia, ex di turno, dal primo minuto al posto di Mixes, e invece il transalpino, nonostante la diffida che pende sulle sue spalle in prospettiva Inter, non avrà un turno di riposo ma giocherà da titolare. Pizarro e Brighi, i due davanti alla difesa, e poi Sisigno sulla tre quarti a destra con Taddei a sinistra, Battista centrale, Totti unica punta. Ripetiamo, dall'1 di novembre, il 1 di novembre del 2008, che la Roma non schierava il 4-2-3-1. Mamma mia, che occasione per il Bologna con Di Vaio, splendidamente in anticipo di testa su Cordova, palla colpita piena e fuori di un nulla. Guglielmo, l'ambiente giallorosso come vive questa vigilia di Arsenal? Situazione paradossale oggi, non c'è una grandissima presenza di pubblico, non potrebbe essere altrimenti. È una partita che si affronta con la consapevolezza che in chiave quarto posto, fate anche terzo o secondo se volete, a seconda delle dichiarazioni dei protagonisti, anche se poi Spalletti parla di problemi ambientali quando i protagonisti, ovvero i suoi giocatori, fanno a fregoria di queste dichiarazioni. L'ultimo di adesso è stato Rise a parlare di secondo posto a portata di mano. Insomma, indipendentemente dal secondo, terzo o quarto, la Roma per la corsa alla Champions League la prossima stagione deve assolutamente portare a casa 3 punti, perché poi il calendario è assolutamente severo con la squadra giallorossa, tanto più che si va a Milano contro l'Inter la prossima giornata di campionato. Allo stesso tempo non può la Roma non essere distratta dalla prospettiva Champions League, una gara da dentro o fuori, una partita da affrontare con grande determinazione. Un po' di turnover, turnazione, fate voi, c'è Vucinic, non gioca, anche per questo motivo non è stato neanche convocato, nonostante ieri fosse nella lista dei convocati, quest'oggi è andato via dal ritiro per rimanere ovviamente a disposizione nella gara con l'Arsenal. Che dire Carlo, la partita è una partita di quelle che ti impongono di stare concentrato con la testa, però tra quello che imporrebbe ovviamente il diktat anche di Luciano Spalletti e quello che poi diranno le gambe e le teste dei giocatori in campo, la risposta è ovviamente per 10 minuti sul terreno di gioco. Certo, c'è intanto sempre il solito fastidio Panucci, no? Fastidio della vicenda Panucci che chiaramente è lì come un'ombra che pesa ogni giorno sulla Roma, su Spalletti che in conferenza stampa non può non rispondere alle solite 5-6 domande relative a Panucci, perché sappiamo come queste vicende sì, diventino sempre più grandi con il passare del tempo, più grandi di quelle che in realtà sono. Sì, poi c'è una situazione in sospeso, se vogliamo. Se il giocatore fosse stato ceduto, come in qualche modo si era detto e come si è provato, certo, a fare, o se il giocatore fosse stato messo sic et simpliciter fuori rosa, avrebbe avuto un senso, una ratio, la decisione societaria e soprattutto tecnica. In questo momento il giocatore si allena con i compagni, poi però non viene mai utilizzato perché è di fatto fuori dai giochi per Luciano Spalletti e fuori sicuramente dalla lista Champions League. Potrebbe essere teoricamente utilizzabile in campionato, ma Spalletti non lo utilizza, previo attesa, credo vana, di scuse pubbliche di Panucci nei confronti del tecnico, e dunque a questo punto è come non averlo. Sì, no, mi sembra un po' una diatriba tra bambini, no? Se non mi chiedi scusa non ti parlo più, una roba del genere. Esattamente. Grazie Guglielmo Timpano dall'Olimpico. Dunque Roma e Siena che stanno per andare in campo, stanno per uscire dal campo invece Bologna e Inter. Siamo al 48esimo, sta per scadere il terzo minuto di recupero concesso da Airoldi. Prima vi ho raccontato di un colpo di testa di Divaio finito fuori. Sì, è finito fuori di un millimetro, ma semplicemente perché Julio Cesar in questo momento è, secondo me, se non il miglior portiere del mondo, sicuramente tra i primi tre. Poi la posizione sul podio decidetela da soli. Straordinaria la sua parata sul colpo di testa ravvicinato, pieno, bello, pulito di Marco Divaio. Ma andiamo da Emilio Buttaro per il finale di Bologna. Emilio. Qui allo stadio Dall'Ara, l'Inter ha battuto Bologna per 2-1, ovviamente deluso il pubblico di sede rossoblu, festeggiano i nerazzurri in campo. Ribadiamo la successione delle reti, tutte nella ripresa, le marcature al 12esimo, scambiazzo sugli sviluppi di un corner calciato da Maicon, sponda di Adriano con tocco di testa e palla che rotola sul braccio destro del brasiliano prima di arrivare a Cambiasso che sblocca il risultato. Al 34esimo il pari del Bologna firmato da Britos che mette dentro, angolato di testa, un angolo calciato da Volpi, esplode il Dall'Ara. Ma la gioia dei tifosi rossoblu dura davvero poco perché dopo meno di 3 minuti Balotelli, appena entrato con una punizione da posizione distante e decentrata sulla quale nessuno libera, trova il palo interno e quindi il gol. Partita, Divaio nel finale sfiora la marcatura, come ricordato dallo studio Julio Cesar ha fatto un intervento davvero strepitoso su Marazzina che comunque ha vivacizzato la manovra offensiva del Bologna. Finisce allo stadio Dall'Ara con l'Inter che batte la formazione rossoblu per 2-1. A voi la linea. Grazie Emilio Buttaro. Dunque adesso vedremo magari anche di... è ancora poco tempo, però se riescono gli amici di Sky ad arpionare qualcuno a bordo campo ve lo faccio sentire attraverso i teleschermi. Intanto ne approfitto per darvi i finali, a questo punto sì, in Serie B, con che sono questi. Avellino batte Vicenza 1-0, gol di Pepe. Finisce a 2-2 Bari-Ascoli, ricordo che il Bari capolista, anzi ormai ex capolista perché ha vinto anche 3-2 il Livorno, pure in rimonta sul Grosseto. Bari perdeva 2-0, gol di Pesce e Giorgi, poi Guberti e Parisi in pieno recupero hanno dato al Bari questo punticino. Vittoria esterna anche per il Cittadella, gol di Meggiorini, ex Inter, che segna il 46esimo del primo tempo e Cittadella batte l'Empoli. Appunto in rimonta il Livorno nel derby con il Grosseto, decide al 24esimo la ripresa un gol di Bergwold dopo i gol di Diamanti e di Tavano per Dicone Abruzzese, a segno per il Grosseto. Vittoria esterna anche della Triestina, tantissimi colpi esterni oggi. Principalli dà alla Triestina la vittoria su Mantova, ma in pesante difficoltà. Doppietta di Madonna per l'Albino Leffe, vittoria 2-1 sul Piacenza, per cui segna Ferraro, mentre Zampagna rete al 20esimo del secondo tempo dalla vittoria al Sassuolo sul Rimini. Modena che fa il colpaccio, rigore di Pinardi al 10° del primo tempo e vittoria a Treviso. Programma ridotto perché si gioca domani sera, sapete non c'è posticipo di Serie A e non ci saremo nemmeno noi domani sera dalle 22 alle 23, ma l'unico appuntamento che salti in una giornata di domani che sarà comunque intensissima per lo sport, domani sera c'è Parma-Brescia, mentre lunedì ancora Frosinone e Pisa-Salernitana. In classifica Livorno 49 punti, Bari 47, Sassuolo 45, Parma 44, Brescia 43, Triestina 42, Grosseto 41, Empoli 40, classifica molto sgranata, poi Albino Leffe 38, Vicenza 37, Cittadella Ancona, Rimini, Mantova, Ascoli, Pisa, grande ammucchiata, 4, 32, Piacenza 31, Frosinone, Salernitana 29, Modena 24, con l'Avellino, Treviso 23 punti. Noi adesso ci fermiamo qui, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunti in regia, l'appuntamento è domani alle 17, buona serata a tutti.